Avete appena ascoltato Buongiorno Mondi, io sono Lorenzo D'Erasmo, ci vediamo domani mattina come sempre alle 10, buona giornata, ciao!